quando metto gasolina. Mi fa impazzire se fa la cattiva. Metà bastarda, metà bambolina. Tu sei legale come una rapina. Principessa della strada, mostrami la via della favela brasiliana. Se metti tutto nella Prada, ti porto via con me in una villa a Copacabana. Che follia, sudamericana. Sudamericana. Andare via, via. Via prima di farci a pezzi. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba. Come sesso e samba, sesso e samba. Sesso e samba, sesso e samba. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba. Come sesso e samba, sesso e samba. E la notte mi sbrana. Quando balli mi fai perdere i sensi. Voglio ricoprirti di gioielli. Nessuno può farti complimenti. Non hai sentimenti. A me piaci così, con tutti i tuoi difetti. Fai la cattiva a letto, mi sporchi col rossetto. Vengo da Roma centro, è pazza del mio accento. Vuole un figlio con me solo per farlo ricco e bello. Sto contando milioni, mi dispiace, non ho tempo. Che follia, sudamericana. Sudamericana. Via prima di farci a pezzi, non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba. Come sesso e samba, sesso e samba. Sesso e samba, sesso e samba. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba. Come sesso e samba, sesso e samba. E la notte mi sbrana. L'ultima nota di quelle canzoni d'amore che chiudono senza parole, ma dicono la verità. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba. Come sesso e samba, sesso e samba. Sesso e samba, sesso e samba. Non siamo troppo diversi. Come sesso e samba, sesso e samba. Come sesso e samba, sesso e samba. E la notte mi sbrana. Come sesso e samba, sesso e samba. Come sesso e samba, sesso e samba. E la...